7. Ascolta e controlla. 1. La foto era in un album. Le foto erano in un album. 2. La bici era rotta, non potevo usarla. Le bici erano rotte, non potevamo usarle. 3. In camera c'era un poster colorato. In camera c'erano dei poster colorati. 4. Non conoscevo quella città. Non conoscevo quelle città. 5. Aveva un'auto nuova. Aveva delle auto nuove. 6. Il re governava con saggezza. I re governavano con saggezza. 7. Facevamo un brindisi per festeggiare. Facevamo dei brindisi per festeggiare. 8. Il pullman era al parcheggio. I pullman erano al parcheggio. 9. Il cinema è al centro della città. I cinema sono al centro della città. 10. Il toast è caldo. I toast sono caldi.